i divani e avrei lasciato tutto lì. Poi vi mandavo anche Lucchi e Valdoglio e ci mandavo a Vergiate e a Rossi e ne abbiamo calato dei nomi e San Mercato c'era paura, peccato. È sempre lo stesso, è sempre Valdoglio da tirarsi, capito? Lì a Vergiate non ne hai spazio per lavorare, c'hai una pedana, basta, c'è una specie di ripaltina, c'hai un metro quadro per metterci la pedana allora e per metterla nel camion, boh. Vabbè, questo non lo so, non so neanche cosa è più. Sto dicendo, no? Attenzione Fabrizio. Ti pesa 10 quintali a pedana. Che c'è? Neanche, praticamente se bisogna andare a lavorare mai. Attenzione Fabrizio. Ti giravo e torna a passare un lustro, grazie a giro. E mi ha chiesto qua al limite da come si chiama, da Caprioli, ci sono dei mignolini. Ma non c'è 34 di Aici, gusto in engoteo e cosa che sporgi pure, 10 centimetri se tu spappa la pedana, uple. Come te ne sgarri?